Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. La scrittura dice nella prima epistola di Paolo ai santi di Corinto quanto segue. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Iddio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo? Poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Voglio ripetere queste ultime parole: è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Quindi c'è una salvezza, o meglio, c'è la salvezza. La salvezza di cui tu che sei senza Dio nel mondo hai bisogno. E la salvezza si può ottenere credendo. Credendo in che cosa? Credendo nell'Evangelo. Infatti Paolo qua, quando parla della pazzia della predicazione, si riferisce alla predicazione dell'Evangelo. L'Evangelo è la buona novella, che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno dai morti, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Questo è l'Evangelo nel quale, credendo, l'uomo viene salvato. Salvato da che cosa? Salvato dai propri peccati. Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Quindi è uno schiavo, non è un uomo libero e ha bisogno di essere salvato. E la salvezza è solamente mediante l'Evangelo. Infatti è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione, perché l'Evangelo è pazzia per chi? È pazzia per quelli che periscono, per quelli che sono sulla via della perdizione, ma la pazzia di Dio è più savia degli uomini. E mentre per coloro che sono sulla via della perdizione l'Evangelo è pazzia, per noi, quindi me incluso, per noi tutti che abbiamo creduto e che crediamo nell'Evangelo, è potenza di Dio. Sì, l'Evangelo, devi sapere, tu che mi ascolti, che sei ancora schiavo del peccato, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ognuno che crede, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi, ciò che ti predico non è un messaggio qualsiasi, è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi io ti esorto a ravvederti e a credere nell'Evangelo per essere salvato dai tuoi peccati. Sappi, la salvezza si ottiene solamente credendo nell'Evangelo. Non c'è un altro messaggio in cui tu, credendo, possa essere salvato. Non c'è. Vada bene, non puoi essere salvato credendo in Maometto o in Buddha o in Zarathustra. non puoi essere salvato credendo nelle loro parole. Perché il Dio ha reso pazza la sapienza di questo mondo e mediante la sapienza di questo mondo non si può conoscere il Dio. Quindi non si può essere salvati. Il Dio ha stabilito che la salvezza si ottenga per grazia, mediante la fede nel suo figliolo Gesù Cristo. Infatti, il Dio ha mandato nel mondo il suo figliolo per essere il salvatore del mondo. Non c'è un altro salvatore oltre lui, perché nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Il salvatore del mondo è Gesù Cristo. E quindi tu, per essere salvato, hai bisogno, devi credere in Lui. E credendo appunto in Lui sarai salvato, liberato dai tuoi peccati. E non solo, otterrai anche la remissione dei tuoi peccati, di tutti i peccati che tu hai commesso e che gravano sulla tua coscienza, contaminandola. Ebbene, io ti dico che credendo nell'Evangelo del Signore Gesù Cristo, quei peccati ti saranno tutti rimessi, tutti cancellati e sarai giustificato perché otterrai, credendo sempre nell'Evangelo, otterrai la giustizia di Dio basata sulla fede, giustizia di Dio che è rivelata appunto nell'Evangelo. Considera, da peccatore che sei in questo momento, quando crederai, diventerai giusto. Sarai stabilito, costituito da Dio, giusto. E tutto questo in virtù, appunto, della fede. Perché la tua fede ti sarà messa in conto di giustizia. Ed oltre ad essere giustificato, sarai riconciliato con Dio. Perché? Perché allo stato attuale delle cose, tu essendo un peccatore, schiavo del peccato, sei un nemico di Dio perché hai violato la legge di Dio. Infatti il peccato che tu commetti è la violazione della legge, di quella legge che Dio ha dato. Quindi in questo momento tu sei un nemico di Dio, l'ira di Dio è sopra di te. Ma nel momento in cui crederai nell'Evangelo, sarai riconciliato con Dio. Poi diventerai un figliolo di Dio credendo nell'Evangelo, perché adesso tu sei un figliolo di ira. L'ira di Dio infatti è sopra di te. Lo sei per natura figliolo di Dio, ma credendo nell'Evangelo diventerai un figliolo di Dio. Quindi diventerai un uomo rigenerato da Dio, una nuova creatura in Cristo Gesù. E credendo nell'Evangelo, un'altra cosa che otterrai, otterrai la vita eterna, perché chi crede ha vita eterna. La vita eterna, infatti, è il dono di Dio. Non è qualcosa che ci si può meritare, non è qualcosa che ci si può guadagnare con le proprie opere, è il dono di Dio in Cristo Gesù. E credendo nell'Evangelo, otterrai la vita eterna, quindi avrai la certezza che quando morirai, morirai in Cristo e quindi ti dipartirai dal tuo corpo per andare ad abitare con il Signore in cielo. Non andrai all'inferno, non andrai all'inferno, perché? Perché il Signore ti avrà strappato dal fuoco, ma questo solamente se crederai nell'Evangelo che ti ho annunziato. Quindi ravvediti, credi nell'Evangelo. Lo so, l'Evangelo è pazzia, pazzia per quelli che periscono, ma sappi che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E io che ti parlo ho sperimentato la potenza dell'Evangelo, perché quando ho creduto nell'Evangelo, questo avvenne molti anni fa, io mi sentii affrancato immediatamente dal peccato Signore, mi liberò all'istante dal dominio, dalla schiavitù del peccato. E io gli sarò per sempre grato per questa grande salvezza che lui mi ha concesso nella sua grande misericordia. Grande salvezza che io ti annunzio. Ti annunzio perché il mio desiderio e la mia preghiera è che tu, peccatore, che sei sulla via della perdizione, tu sia salvato. Sì, proprio così. È per questo che ti rinnovo l'esortazione a ravvederti e a credere nell'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Ricordati, a Dio è piaciuto di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Spero che quanto prima, anzi già questa sera, tu veramente possa dichiarare di essere stato salvato mediante la pazzia della predicazione. Chi ha orecchi da udire, oda.